Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666, come sempre per i vostri sms, i temi di questa giornata. Ovviamente, così come ha già fatto poco fa Oscar Giannino, e lo faremo da un altro punto di vista, daremo ampio spazio alla legge di stabilità, lo abbiamo fatto già giovedì e venerdì con Sebastiano Barisoni, oggi ci ritorniamo con due elementi fondamentalmente. Il primo è il tema, la grande partita di questa manovra, grande partita che è sostanzialmente l'abolizione dell'IMU e della TASI sulla prima casa, che è quella che sostanzialmente potrebbe creare qualche problema in più interno alla maggioranza per Renzi. Se volete un'opinione personale, poi magari segnatevela e rinfacciatemela successivamente, su come andrà a finire. C'è questa forte tensione con la minoranza del Partito Democratico, una tensione che si risolverà col fatto che in sede parlamentare presumibilmente faranno rientrare l'IMU e la TASI per le case di lusso, magari sopra un certo valore, la minoranza interna sarà accontentata, la legge passerà così e saranno tutti felici e contenti. Non è una cosa che si basa su indiscrezioni o notizie che sono arrivate, ma è un'ipotesi su anche altri passaggi parlamentari che abbiamo visto in passato, come per esempio le riforme costituzionali. Alla fine si è trovato un accordo che accontentasse la minoranza interna del Partito Democratico e alla fine la riforma costituzionale è passata in Senato con poche sostanziali variazioni, salvo questa elezione diretta ai senatori che poi andrà stabilita con la legge. Vedremo comunque cosa succederà su IMU e TASI, però qua lo snodo ci sembra un altro. Al di là, come dire, dell'effetto economico della cancellazione delle tasse sull'abitazione principale, che come sappiamo è oggetto di grande discussione, di grande dibattito, molti economisti sostengono, come sapete, che sarebbe meglio, molti anche istituti di ricerca internazionali, la stessa Unione Europea sostiene che sarebbe meglio tagliare le tasse sul lavoro piuttosto che quelle sulla casa, proprio da un punto di vista economico. Dall'altra parte il governo replica, dice no, insomma, qua gli italiani, 80% degli italiani è proprietario di casa, questo può dare una forte spinta ai consumi. Al di là appunto dell'effetto economico, il tema è questo enorme cantiere delle tasse sulla casa, per cui negli ultimi 10 anni l'abbiamo vista cambiare per 5 volte. Inizia ad essere piuttosto insostenibile. Il tema non è tanto quello dell'abolizione della tassa, che comunque quando calano le tasse siamo sempre contenti. Il tema è l'incertezza fiscale di fronte alla quale questa abolizione della tassa sulla casa ci pone, e questo enorme cantiere che, come ricorda il vice direttore del Sole 24 Ore Salvatore Padula in un editoriale oggi proprio sul Sole 24 Ore del lunedì, che ha ampio spazio, ve lo ricordo, dedicato proprio a questi temi, insomma dice qua c'è un enorme cantiere, c'è la necessità di rimettere ordine appunto in tutto il sistema della tassazione sulla casa, e anche questa volta probabilmente questa è un'occasione persa. Comunque questo è il tema, insieme all'altro grande tema della legge di stabilità, che cosa ci dirà Bruxelles. Qua, come avete sentito e come avete sentito anche dal giornale radio, c'è una sostanziale promozione, almeno secondo indiscrezioni. Vedremo poi che cosa diranno effettivamente i documenti ufficiali, che sono ben più puntuali di una voce che circola, di un'agenzia di due righe. Vedremo che cosa diranno, ma il tema veramente importante qua è una partita da 3,3 miliardi. Questi 3,3 miliardi sono i soldi che l'Italia dice di aver speso per gestire la grande emergenza e l'afflusso di migranti e profughi nel nostro paese, e questi 3,3 miliardi sono una partita importante all'interno di questa manovra. Bruxelles ce la farà passare? Parleremo anche di questo. Nella prima parte, in apertura di trasmissione, ci occuperemo invece di economia internazionale, perché ci sono molti dati dalla Cina arrivati oggi che ci danno qualche segnale interessante, innanzitutto sul prodotto interno lordo, che fa segnare una crescita del 6,9%. Come al solito lo diciamo sempre, a noi sembra tanto. È tanto evidentemente anche per la Cina, ma forse non abbastanza a sostenere un'economia con una popolazione di quelle dimensioni e con quelle caratteristiche. È comunque il livello più basso dal 2009, questo dato del terzo trimestre, ed è superiore comunque alle attese degli analisti. Dall'altra parte ci sono dati negativi, dove negativi non vuol dire col segno meno, ma con crescite inferiori rispetto alle attese per quanto riguarda la produzione industriale e gli investimenti, e dati particolarmente positivi dai consumi. Vedremo tracciare un quadro dell'economia cinese, dalla quale tanto dipende di un po' di tutte le economie mondiali, insomma, evidentemente abbiamo spesso chiamata la fabbrica del mondo. In parte non è più così, in parte lo è ancora, certo, questo è un elemento, l'elemento cinese, che fa un po' preoccupare i mercati. I mercati che oggi sono positivi, più 0,47% il FTSE MIB, mezzo punto percentuale di guadagno per il FTSE All Share, Parigi che è in perfetta parità, più 0,05%, e Francoforte che guadagna lo 0,7%. Per quanto riguarda l'America c'è un calo dello 0,13% sullo Standard & Poor's 500 e dello 0,14% sul Dow Jones, e anche sui mercati arriveremo più avanti. Vi dico intanto che il titolo migliore al momento è Telecom Italia, che guadagna il 3,07%, Exor il 3,05%, Azimut il 2,93%, Mediobanca il 2,6%, Buzzi Unicem il 2,5%, Fiat Chrysler l'1,82%, in fondo all'Isino Saipem che c'è del 2,95%, Tenaris il 2,7%, CNH l'1,18%, Eni lo 0,89% e TOTS mezzo punto percentuale di calo. Le notizie in breve di oggi. Un paio di note a chi già ci scrive al 349-238-6666. Di canone in bolletta ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare, quindi nessuno ci ha messo il bavaglio sul canone Rai, come scrive qualcuno. E non so se siamo l'unico paese al mondo dove chi ha un castello non paga tasse, però insomma, ecco, una sottolineatura che ci sta. Comunque potete continuare a intervenire, 349-238-6666. Iniziamo dalle materie prime, come sempre l'oro in calo dello 0,5% a $1,177 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio abbiamo un netto calo, l'abbiamo visto riflesso in realtà sui mercati, anche sull'andamento dei titoli collegati al petrolio. Il WTI con consegna a novembre, quello quotato a New York, scende dell'1,86% a $46,3 al barile. Il Brent con consegna a dicembre, quello del Mare del Nord, quotato a Londra, giù del 3,11% a $50,4 al barile. La Federal Reserve, ci sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato di JP Morgan, Jamie Dimon, che in un'intervista a Bloomberg dice quello che un po' diciamo tutti e da tempo, ossia, per quanto conti, insomma, sicuramente più autorevole la sua opinione, che un aumento dei tassi di interesse sarebbe una cosa buona ed eliminerebbe l'incertezza, un aumento dei tassi a parte della Fed. Comunque dovrebbe arrivare entro fine anno, ci ha fatto capire abbastanza chiaramente Janet Yellen, il presidente della Fed. I dati dalla Cina, ci arriveremo tra un attimo, crescita più 6,9% nel terzo trimestre del 2015, la più bassa dal 2009. cala la produzione industriale, ossia cresce del 5,7% in settembre rispetto all'anno precedente, in agosto era un più 6,1%. E aumentano le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina. Sono cresciute del 10,9% a settembre, 10,9% rispetto all'anno precedente, leggermente di più del 10,8% di agosto. C'è l'altro grande colosso asiatico, per usare un'espressione abusata. L'agenzia Standard & Poor's, parlando della Cina, conferma il rating BBB-, outlook stabile, ossia previsioni per il futuro del rating, del giudizio sulla Cina, sull'India, scusate. Il PIL dell'India è previsto crescere del 7,4% nel 2015 e in media sotto l'8% fra il 2015 e il 2018. Venendo all'Europa, allora, sabato sera il Parlamento greco ha approvato una nuova serie di misure di austerità dopo le elezioni anticipate del mese scorso, un voto che era considerato il primo test parlamentare per Alexis Tsipras dopo la tornata elettorale. I deputati hanno approvato leggi per penalizzare i pensionamenti anticipati e per estendere la tassa sulla proprietà. Il varo di queste misure era necessario per ottenere un prestito da 2 miliardi di euro nell'ambito del terzo accordo di salvataggio raggiunto dalla Grecia con i creditori. Un piano che vale 86 miliardi in 3 anni. C'è questa notizia che sta facendo molto discutere, quella riportata al Sunday Telegraph ieri, ossia che i grandi azionisti della Volkswagen sarebbero intenzionati a fare causa chiedendo 40 miliardi di euro alla casa automobilistica per lo scandalo dei motori diesel che ha coinvolto il marchio, per la truffa sui motori diesel e sulle emissioni, della quale ampiamente abbiamo parlato e stiamo continuando a parlare. Cita il Sunday Telegraph questo Quinn Emanuel, un legale famoso per le sue vittorie in importanza tanti class action, che sarebbe stato chiamato a seguire il caso. Chissà poi qua quanta pubblicità c'è, insomma, c'è anche qualcuno che si chiede, insomma, questi già hanno perso metà del valore solamente al momento nel quale è scoppiato lo scandalo Volkswagen, chissà se vogliono intentare una causa alla Volkswagen per perdere ulteriori soldi, con grande incertezza su come possa andare. La legge di stabilità, si diceva, secondo indiscrezioni delle quali parla l'ANSA, c'è un buon clima in commissione dopo una prima lettura della legge di stabilità. Fonti qualificate indicano che l'Italia è più solida del 2014 e non ci sarà rinvio della manovra al mittente. E comunque qua vi ricordo quello che ha detto il Presidente del Consiglio Renzi venerdì, ospite di Alessandro Milano e Oscar Giannino. Ha detto: se ce la rimandano indietro, se ce la rimandano indietro, gliela rimandiamo tale e quale. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan dice che la trattativa con Bruxelles è un processo continuo, vale per la legge di stabilità e per il piano nazionale di bilancio che verrà valutato a novembre. Questo non vuol dire che le opinioni di governo e commissari siano assolutamente identiche. Dice ancora Padoan: 12 mesi fa non mi sarei aspettato segnali così chiari di ripresa del mercato del lavoro. Stiamo facendo un cammino che ci sta tirando fuori dalla voragine nella quale abbiamo perso 10 punti di PIL. E ancora Padoan chiarisce in merito al tema che viene spesso rinfacciato all'esecutivo. Insomma, avete promesso 10 miliardi di tagli di spesa, ne avete presentati solamente 5. Dice: con la legge di stabilità dell'anno passato, di cui ci siamo dimenticati, abbiamo tagliato moltissimo. Quest'anno continueremo, taglieremo soprattutto i ministeri, e per quanto riguarda gli altri enti di governo si tratterà di un minore aumento di spesa. Così ancora Padoan sull'abolizione della TASI sulla prima casa e di altre imposte comunali, dice, sarà totalmente restituita ai comuni, intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai 3. Francamente mi sembra che con la legge di stabilità dell'anno passato, di cui già ci siamo dimenticati, abbiamo tagliato moltissimo. Quest'anno continueremo con i tagli, toglieremo soprattutto ai ministeri, e per quanto riguarda gli altri enti di governo si tratterà di un minore incremento di spesa. Come è ben noto, l'eliminazione della TASI sulla prima casa e altre imposte comunali saranno totalmente restituite ai comuni. La copertura di queste operazioni è evidentemente la copertura che si trova in legge di stabilità. Partita l'ondata di sms sui castelli. Chi ci dice che in Spagna un castello è riconosciuto come monumento storico e culturale, per cui scatta l'abolizione della tassa. In realtà in Italia ci sono degli sconti anche per questo, nel caso che tu renda visitabile la cosa, se è un bene culturale lo devi rendere visitabile una volta a settimana. Altri ci scrivono: chi ha un castello spende cifre pazzesche per la manutenzione. Sono affascinato dal fatto che ci siano così tanti proprietari di castelli tra i nostri ascoltatori. E la questione della soglia del contante, ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare. Io ho l'impressione, anche qua vi ripeto, una previsione a tentoni rispetto a come ho visto procedere le cose dal governo al Parlamento in questi mesi, io ho l'impressione che anche sulla soglia del contante ci sarà qualche novità. Però, ripeto, non sono indiscrezioni che ho raccolto da chissà dove, ma è un'impressione rispetto a come si sono svolte le cose. Il governo si è spinto sempre un passo più in là, ha avuto la minoranza del partito di Renzi che si è schierata contro certe cose e si è arrivati ad una sorta di compromesso. Sarà 2.000 euro, quanto sarà? Non lo so. Allora, ancora Padoan: l'Italia è il paese in cui investire, è il momento, un buon momento per farlo, intervenendo a un convegno della Previdenza all'economia reale. E poi ha detto: il sistema pensionistico italiano è giustamente valutato come tra i più robusti della zona euro, si potranno considerare misure, ma questo contesto va preservato nei suoi assi portanti. Ancora Padoan. E cioè che in un contesto internazionale come quello che ho descritto, investire in Italia è una buona idea. Una buona idea per tre ragioni. Per ragioni di stabilità, per ragioni di sostenibilità della crescita e per ragioni di profittabilità. Stabilità a lungo termine. È un paese nel quale, malgrado il debito pubblico sia quello che è, la stabilità di finanza pubblica è garantita. È garantita per molte ragioni, ne cito due, una è stata già citata, che il sistema pensionistico, che è uno dei pilastri della sostenibilità a lungo termine del sistema di finanza pubblica, è giustamente valutato come uno dei più robusti dell'Europa, della zona euro. Ancora sui castelli, è così, vediamo di chiudere questa vicenda, poi magari ne parliamo con Cristiano Dell'Oste che sarà il nostro ospite. Ci scrive Giuseppe: chi possiede castelli e ville antiche non solo non paga nessun tipo di tasse, ma è rimborsato su qualsiasi spesa di manutenzione. In realtà nemmeno questo è vero. E a dimostrazione, questi vostri sms sul tema dei castelli, ma possono valere anche per la casa, sono a dimostrazione del fatto che questo cantiere delle tasse sulla casa si è protratto per troppo tempo. È quello che dicevamo all'inizio, non si può cambiare normativa praticamente ogni due anni, perché si diventa pazzi letteralmente. Infine, notizia che vi ha dato il giornale radio anche poco fa, GR24, il 7.30 precompilato comincia a dare i suoi frutti, così leggiamo nel titolo dell'agenzia. Sono frutti amari forse, perché con verifiche in tempo reale rese possibili dalla nuova dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni inviti bonari a 220.000 contribuenti avvisandoli di possibili anomalie. Chi riceve la lettera può rimediare con ravvedimento operoso e sanzioni ridotte entro il 29 dicembre con unico. Momento dei 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che vanno in onda, come sapete, anche su RDS, Radio Dimensione Suono. Oggi Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, ci parla degli aiuti di Stato. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Ma gli aiuti di Stato sono tutti uguali? Se guardiamo le decisioni della Commissione europea non sembrerebbe, visto che è stata aperta una nuova procedura di infrazione per un presunto aiuto di Stato, dell'Italia ovviamente, alle proprie banche. Nello specifico stiamo parlando di Banca Tercas, una delle banche che, come Banca Marche ed altre piccole banche territoriali italiane, sta vivendo un grande momento di crisi e ha bisogno di essere ricapitalizzata, se non salvata del tutto. Ebbene, l'intervento di un consorzio di banche a salvataggio di Banca Tercas ha provocato la reazione un po' inconcepibile della Commissione europea, che ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia chiedendo di riprendersi i soldi dalle banche che ha salvato. La decisione è un po' strana, visto che a partire dal 2008 la crisi finanziaria ha determinato una vera e propria espansione, ma senza precedenti, degli aiuti di Stato a favore delle banche. Basti pensare che tra il 1 ottobre del 2008 e il 1 ottobre del 2014 la Commissione ha autorizzato 450 volte le banche francesi, tedesche, inglesi e del resto d'Europa ad erogare aiuti di Stato a favore delle banche. L'ammontare degli aiuti autorizzato dalla Commissione a favore delle banche è stato pari a oltre 3.800 miliardi di euro, il 29,8% del PIL europeo del 2013. Insomma, viste le cifre in gioco, qualche milione a favore di Banca Tercas o di Banca Marche è davvero un aiuto di Stato? L'Unione Europea farebbe bene a riflettere bene prima di autorizzare quelle degli altri o vietare le nostre. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. In ultimo, prima di andare in pausa e poi ritrovarci per parlare di Cina in questa prima parte, poi nella seconda parte arriveremo alla manovra. Ci sono i dati forniti dal commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, che dice le previsioni, o per meglio dire, a fine Expo raggiungeremo i 21 milioni di visitatori. Oggi comunichiamo ufficialmente i numeri della settimana scorsa, siamo attorno a 1,1 milioni, circa 1 milione e 100 mila persone la settimana scorsa, quindi 19,4 complessivi. Ora ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, c'è il meteo, ci ritroviamo subito dopo per avere un po' il quadro dell'economia cinese. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. Eccoci di nuovo, buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, ancora in diretta con Focus Economia. A proposito di manovra, ancora in molti ci state scrivendo su IMU e TASI, tra poco ci arriveremo. Qualcuno, Luca, credo da Vicenza, ci scrive: per il canone RAI perché non si fa il segnale criptato ricevibile con card solo da chi paga il canone? Allora, io non so se questa sia la soluzione tecnologica migliore. Le devo dire, Luca, che pensare che nel 2015 si debba ricorrere a un metodo casuale come il metterlo in bolletta o l'andare a ricercare l'evasore, sinceramente mi colpisce un po', semplicemente perché so che abbiamo a disposizione, avremmo a disposizione una serie di tecnologie per poter verificare tutto questo. Siamo alla Cina. Ci sono una serie di dati interessanti che sono arrivati oggi, un rallentamento ma meno del previsto dell'economia cinese, nel terzo trimestre un PIL cresciuto del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2014, gli analisti si aspettavano un più 6,7 o un più 6,8 al massimo. Ai minimi come crescita dal primo trimestre del 2009, picco della crisi economica mondiale. Rallenta anche la crescita della produzione industriale, più 5,7% rispetto allo stesso mese del 2014, parliamo di settembre, contro il più 6,1 di agosto. Crescono le vendite al dettaglio, scendono un po' gli investimenti, o meglio, crescono meno del previsto. Scrive un ascoltatore: i dati sul PIL cinese sono taroccati come le centraline Volkswagen. Giuliano Noci, professore del MIP, della Business School del Politecnico di Milano, dal 2006 vi ricordo è attivo Politonk, che è il primo campus italo-cinese per un diploma riconosciuto in entrambi i paesi politecnici, Milano e Torino per l'Italia, e la Tongji University di Shanghai per la Cina. Giuliano Noci si occupa di questo, quindi è un conoscitore abbastanza profondo ormai dell'economia cinese. Professor Noci, buonasera innanzitutto. Buonasera. E le giro la battuta dell'ascoltatore: i dati sul PIL cinese sono taroccati come le centraline Volkswagen? Ma diciamo che il Dieselgate non viene visto in realtà con grande stupore e sorrisi da parte dei cinesi. Che i dati cinesi non siano pienamente attendibili non lo scopriamo oggi. Quindi non è che l'ultimo dato è taroccato, al limite sono stati taroccati i dati degli ultimi 15 anni e nessuno ha detto nulla. In realtà certamente quello che è importante evidenziare sono le indicazioni di trend da un lato e in secondo luogo il fatto che comunque stanno i cinesi robustendo quella che è la metodologia dell'ufficio di statistica. Il dato vero di oggi comunque è che la Cina è un dato positivo, la Cina cresce meno del previsto ma sta riequilibrando il proprio sistema industriale, ma credo ne parleremo fra poco. Sì, esattamente questo che le volevo chiedere, perché abbiamo visto una produzione industriale che mostra per gli standard cinesi qualche segnale di debolezza, e però i consumi vanno molto bene, apparentemente, pur con il fatto che sono dati mensili e quindi da prendere con le pinze, ma lei trend li ha sotto mano un po' più di me, è una tendenza che li avvicina più al nostro tipo di economie. Lei ha perfettamente ragione, ricordo agli ascoltatori che questo dato è il frutto di un più 58%, crescita del contributo al 4% rispetto al 6,9% citato oggi da parte dei consumi. I consumi stanno crescendo in misura significativa da un lato, dall'altro lato per quanto riguarda il sistema delle imprese assistiamo a una progressiva rilevanza nel mix complessivo del settore dei servizi che hanno contribuito grosso modo per un più 3% alla crescita. Quindi si sta andando nella direzione voluta, nel riequilibrio rispetto a una situazione oggettivamente sbagliata, cioè di economia basata onnivora dal punto di vista degli investimenti infrastrutturali, quindi la direzione è quella giusta. Questo non vuol dire però che la Cina non abbia problemi. Ci può dare qualche dettaglio su quali sono questi problemi, ma soprattutto quali sono i veri grandi fattori che rischiano di creare squilibri sull'economia cinese e a cascata su un bel pezzo dell'economia mondiale? Guardi, se la Cina vuole completare il proprio processo di trasformarsi in un'economia trainata dai consumi, deve agire sulla propensione al consumo e quindi ridurre la propensione al risparmio dei cinesi. Questo vuol dire sostanzialmente due cose: andare a introdurre un sistema di welfare che non è quello attuale e intervenire in misura molto significativa sulla sanità. I cinesi risparmiano e spendono poco perché sanno che dovranno spendere molti soldi per curarsi quando diventeranno più vecchi. Secondo elemento è il tema del sistema finanziario. Il sistema finanziario deve evolvere verso una maggiore trasparenza, verso una richiesta di regole di governance più chiare anche per le aziende quotate e soprattutto l'altro tema è che il sistema finanziario deve essere messo nelle condizioni di non finanziare solo le imprese di Stato, ma le piccole e medie imprese private, perché questa è l'altra sfida, una Cina che guarda, diciamo, al futuro, una Cina che non può crescere solo con le imprese di Stato, deve liberare sempre più energie dei privati anche in nome dell'agognata innovazione a cui i cinesi guardano e guardano sempre più anche all'Italia, proprio per acquisire know-how in termini di innovazione. E per chiudere, professore, dopo che molto ci siamo preoccupati nelle ultime settimane appunto di come stava andando l'economia cinese, dei problemi che sta manifestando, abbiamo parlato di quella sorta di bolla dell'azionario che si è generata, lei vede questo paese come un fattore di rischio per l'economia globale al momento oppure no? Io non lo vedo come fattore di rischio oggettivamente. La Cina ha, grazie anche alle riserve monetarie, ha ampie possibilità di intervento. Quello che però credo è che un rallentamento degli investimenti industriali e una riorganizzazione di quella che ad esempio è l'enorme sistema siderurgico cinese porterà alcune economie, quelle essenzialmente basate sulle risorse naturali, a rallentare, a battere un po' il colpo, perché sostanzialmente già gli effetti li vediamo in modo plastico, il consumo di risorse naturali va calando e conseguentemente i prezzi andranno riducendosi. Quindi non un tema di crisi sistemica, piuttosto quei paesi che non hanno saputo costruire una politica industriale vera e si sono basati sulle risorse naturali, inevitabilmente ne subiranno il contraccolpo. Grazie a Giuliano Noci per essere stato con noi, professore al MIP, la Business School del Politecnico di Milano, che insieme al Politecnico di Torino ha messo insieme questo programma con la Cina, con la Tongji University di Shanghai, ha anche stipulato accordi con 14 università cinesi per offrire periodi di studio in Cina ai propri iscritti. Sentiamo cosa succede sulle strade subito dopo i mercati. Intanto vi dico che la chiusura è positiva, più 0,37% sul FTSE MIB, più 0,45 sul FTSE All Share. A tra un attimo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. All'ascoltatore che ci dice come si prevedono i consumi natalizi in Cina, non penso che ci sia proprio una tradizione di acquisto a Natale in un paese dove i cristiani sono una nettissima minoranza. Detto ciò, se l'idea è capire se c'è un periodo di acquisto particolare per i cinesi, ha ragione, è un buono spunto, magari avremo l'occasione di tornarci. Siamo ai mercati, con, come si diceva, la chiusura è positiva, più 0,37% il FTSE MIB, più 0,45% il FTSE All Share, Parigi appena sopra la parità, Francoforte guadagna lo 0,6%, appena negativa la borsa americana, o meglio, negativa sul Dow Jones, però un meno 0,04%, praticamente piatta, lo Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,01%. Flavia Carletti, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, che ci dici su questa giornata? Sì, allora, la giornata appunto è stata poco mossa, se vogliamo definirla così, e si vede appunto da come sono andati gli indici europei, con la fatta eccezione, diciamo, tra le grandi borse, solamente Londra è stata un po' appesantita dai titoli minerari, che sono molto pesanti sul listino inglese. Insomma, il tema della giornata è stato un po' il PIL cinese del terzo trimestre, che ha registrato un più 6,9%, è stato un dato considerato comunque luce ombre, perché è inferiore delle attese del governo cinese, che si aspettava un più 7%, però è superiore comunque alle attese degli analisti, che si aspettavano un più 6-8%, quindi in qualche modo c'è un rallentamento, sì, ma è meno di quanto previsto, quindi insomma i listini hanno preferito, diciamo, non né farsi prendere dal panico né dall'euforia. C'è stata molta attesa, anche perché in settimana c'è questa riunione della BCE da cui alcuni si aspettano indicazioni, e poi la settimana prossima ci sarà la Federal Reserve ancora una volta, che terrà banco probabilmente ancora con la questione tassi. Allora, in grande spolvero Telecom Italia, più 3,16%. Sì, è stato titolo alla fine della giornata, il miglior titolo tra le blue chip italiane, e insomma sono due i temi della giornata per Telecom. Dal CDA di venerdì si sa che ha dato mandato al management di esaminare la possibilità di una collaborazione con Metroweb per gli investimenti della banda ultralarga. Sembrava un progetto un po' arenato, mentre invece è stato rilanciato, e secondo gli analisti di Equitasim questa collaborazione potrebbe offrire delle ottime sinergie industriali. In più si sta riprendendo piede quello che è il progetto legato alla dismissione di Inuit, che è la controllata delle torri di Telecom, di cui la società ha già detto che vuole cedere la maggioranza, e dopo le indiscrezioni da parte della spagnola Cellnex si parla di un interesse di F2I ad affiancare la società spagnola. Il fondo italiano potrebbe, diciamo, rendere più fattibile questa operazione e darle anche un sostegno politico, visto che F2I comunque è sponsorizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Positiva Exor più 2,89% e Fiat Chrysler più 1,75%. Qua gioca molto la Ferrari, no? Esattamente, c'è questa grandissima attesa per il prezzo del collocamento di Ferrari, che mercoledì prossimo debutterà al Wall Street. Si parla di parte alta della forchetta, che era tra 48 e 52 dollari per azione, e quindi, diciamo, in attesa di questo con il titolo Fiat FCA continua a salire. Oggi è salita anche Exor perché da parte di alcuni analisti si è iniziato a dire, magari visto che la richiesta per questa IPO è stata altissima, magari si può entrare indirettamente in Ferrari tramite Exor, perché comunque a gennaio dell'anno prossimo la distribuzione dell'80% del capitale in FCA verrà dato ai soci di FCA, quindi Exor, e quindi della notizia legata quindi a Ferrari hanno beneficiato entrambi i titoli. Naturalmente, bene anche Azimut più 2,73%. Sì, Azimut oggi ha annunciato la quinta acquisizione dell'anno in Australia, rafforzando ancora di più la sua posizione nel paese, e grazie a questa operazione che riguarda Wise Planners, il gruppo Azimut raggiunge masse gestite nel paese Down Under, lo chiamano, insomma, dell'emisfero sud, di 1,4 miliardi di dollari australiani. È stata un'operazione che viene calcolata come costo di 2,9 milioni di euro circa, che però appunto ha allargato moltissimo il portafoglio in questo paese. Quindi una buona operazione. Positiva anche Buzzi Unicen, che guadagna il 2,5%, Monte dei Paschi l'1,77%, Mediobanca il 2,34%. Sì, esatto, Mediobanca è stato il migliore tra i titoli bancari, e secondo gli operatori per due motivi in particolare. Da una parte è stata sostenuta dalle migliori prospettive dei risultati di Chebanca, che è la banca retail del gruppo, che potrebbe raggiungere già il break-even nell'esercizio attuale, e in più ci si aspetta una crescita delle commissioni di Mediobanca anche nel 2015-2016 come esercizio a livelli simili a quello dell'ultimo esercizio attuale, questo grazie al ruolo che Mediobanca può giocare nel grande atteso movimento di consolidamento del settore bancario, soprattutto tra le popolari, perché Mediobanca è tra gli advisor del Banco Popolare, e poi si sta occupando anche della quotazione della Popolare di Vicenza. Secondo gli analisti, grazie a questo ruolo potrebbe, diciamo, avere ruolo anche in altre operazioni, e quindi, diciamo, mantenere un buon livello di crescita delle commissioni. In particolare si aspetta un più 26% su anno, e quindi, diciamo, questa cosa ha dato spinta al titolo. Male i petroliferi, titoli collegati al petrolio. Qua insomma abbiamo dato in apertura ai nostri ascoltatori l'andamento del greggio oggi, il WTI è sceso, quello con consegna a novembre, del 2,35% a 46,15 dollari al barile. Il Brent, quello quotato a Londra, il Mare del Nord, giù del 3,05% a 50,46, e mi sembra, Flavia, che ne risentano un po' tutti, no? Sì, esattamente, non è solo le vendite, non hanno riguardato solo i titoli in Italia, cioè Tenaris che ha perso il 2,67%, Saipem il 2,59%, l'Eni lo 0,9%, ma è stato un movimento di vendita che ha riguardato un po' tutta l'Europa. Sono stati tra i titoli più venduti anche Total a Parigi, Technip sempre a Parigi, anche Vallourec, che è paragonabile, diciamo, alla nostra Tenaris, e anche le azioni Shell sia a Londra che ad Amsterdam comunque hanno avuto dei ribassi, quindi, diciamo, è stato un movimento generalizzato, non legato proprio solo ai titoli italiani, che ha riguardato tutti. Tenaris meno 2,67%, Saipem -2,6, Eni -0,89%, tra i titoli in negativo troviamo anche CNH -1,27%, Mediaset che lascia sul terreno 0,5%, Unipol lo 0,45%, Generali lo 0,3%, Finmeccanica lo 0,25%, negativa anche Tots, anche qua dello 0,25%, Enel dello 0,19%, Uxnet a portè dello 0,17%, tra i titoli in positivo troviamo anche Enel Green Power +1,6%, Luxottica altrettanto, Banco Popolare +1,5%, A2A +1,5% anche qua, così come Campari, Moncler e Banca Popolare Emilia Romagna guadagnano l'1,2%, Unipol Sai lo 0,93%. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cori Il Sole 24 Ore, buonasera, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo e apriamo tutto il capitolo della manovra, dalle tasse sulla casa alle coperture. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Benvenuti, tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30, con me c'è Carlo Centa, Pierluigi Pardo, ancora tu, ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, facciamo programma più serio, molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. Po' meno? Po' meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms, e siamo finalmente alla manovra. Varata giovedì scorso, e lo sapete, tra i 27 e i 30 miliardi di euro, e lo sapete. Dove la misura principale, la più forte in termini di dimensioni, perché vale circa 5 miliardi, è la riduzione delle tasse sulla casa, il taglio delle tasse sull'abitazione principale, TASI e IMU. 5 miliardi perché si tiene dentro anche l'eliminazione di IMU imbullonati e agricola. Un intervento che riguarda 20 milioni di abitazioni principali, compresi castelli, ville, palazzi di pregio. Ne abbiamo discusso nella prima parte, sono arrivati dei vostri sms, compreso un ascoltatore che ha un castello, suppongo dal nome col quale si è firmato essere un erede del conte di Cavour, ma insomma. Iniziamo proprio da qua, in questi giorni, ma avremo tempo nelle prossime settimane. Vedo molti ascoltatori che ci scrivono, alcuni sul tema della soglia del contante a 3.000 euro, altri ci dicono il rinnovo del contratto del pubblico impiego fermo da 6 anni, altri ancora il canone RAI, ma vedrete, non è che finiremo di parlarne oggi della manovra. Oggi affrontiamo questo tema, parleremo anche delle coperture di questo tema, del, chiamiamolo, bonus migranti, come lo vogliamo chiamare, il fatto che l'Europa ci conceda di spendere di più a fronte dei soldi che abbiamo speso per gestire l'emergenza e gli arrivi di profughi. Noi la valutiamo, l'abbiamo valutata in 3,3 miliardi. E questo è sub iudice dell'Europa, appunto. Iniziamo dalla casa, però. Cristiano Dell'Osta, del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Cristiano. Allora, abbiamo, come dire, un problema innanzitutto politico, no, per l'esecutivo, evidentemente, che è quello della minoranza del Partito Democratico, che dice attenzione, in questo modo si esentano anche ville, castelli, abitazioni di lusso, e insomma questo non è equo, e vedremo come andrà a finire questa cosa qua. Come detto, io ho una personalissima ipotesi per cui alla fine arriveranno ad un qualche tipo di accordo che darà soddisfazione alla minoranza, e lo faranno in sede parlamentare, mentre il dibattito si concentrerà su tutto questo. Intanto, l'esenzione effettivamente, Cristiano, vale anche per le case di lusso, no? Ma allora, se noi andiamo a vedere il disegno di legge di stabilità presentato dal governo, sì, nel senso che per il 2016 si propone di eliminare la TASI, quindi sulle abitazioni principali, diciamo delle categorie ordinarie, usiamo questa espressione anche se impropria, ma anche l'IMU, che nel 2014 e anche quest'anno viene pagata sulle abitazioni principali nelle categorie catastali A1, A8 e A9, che lo ricordiamo sono appunto le abitazioni signorili, le ville e i castelli e i palazzi di pregio. Sì. Questa è un po' la classificazione. Però l'impressione è, dicevi, il problema è prevalentemente politico, l'impressione è che sia proprio così, perché può essere interessante andare a vedere le cifre. Ecco, su questo ti volevo, perché anche un altro ascoltatore ci ha scritto prima, sì, però guardate le percentuali, cioè quanto gettito valgono queste famose ville e castelli a tutti gli effetti? Esatto, allora intanto diciamo quante sono. In Italia ci sono 34 milioni di case censite in catasto, di cui 19,7, quasi 20, sono abitazioni principali, prime case. Di questi 34 milioni, quindi facciamo riferimento al totale, quelle iscritte nelle categorie catastali di cui vi dicevo prima, quelle che il catasto considera di pregio, di lusso, sono poco più di 70.000, quindi stiamo parlando di meno dell'1% del totale delle abitazioni, poco più di 70.000 considerando anche le seconde case, quindi visto che le proporzioni sono più o meno dei 2/3, non è difficile fare il conto e calcolare che stiamo parlando di meno di 50.000 abitazioni principali. Detto questo, in termini di gettito, allora qui lo sappiamo con precisione per quanto riguarda il 2014, ovviamente il 2015 è ancora in corso, non ci sono i dati, ma il riferimento non cambia molto. Allora, nel 2014 l'IMU sull'abitazione principale, quindi su queste case di pregio, ha fruttato allo Stato 91 milioni. A fronte di un gettito della TASI sulle abitazioni principali di circa 3 miliardi e mezzo. Quindi si capisce bene che, messo in questi termini, il dibattito è veramente più squisitamente politico, insomma, molto esatto. Più che di coperture e di denaro che serve, esatto. Sostanzialmente. Poi, no? È chiaro che questi soggetti, proprietari di queste abitazioni, hanno ovviamente un risparmio in gioco che è facilmente superiore ai 1.000 euro, perché parliamo di case che, per quanto poche, hanno una rendita elevata, quindi il valore simbolico della questione anche politicamente ci sta tutto. D'altra parte è vero che non sposta una grossa quantità di gettito. Va detto anche, a onor del vero, che siccome il catasto italiano funziona ancora con una serie di accatastamenti anche fatti negli anni 30, in alcuni casi negli anni 40 del secolo scorso, la distribuzione territoriale di queste case di pregio a volte segue dei criteri imperscrutabili. Vi faccio un esempio: la città in Italia che ha più case iscritte in categoria A1 sono le case signorili. Uno potrebbe pensare, beh, magari Roma, perché è la più grande, ha un centro storico vasto, magari Milano, no, è Genova, per esempio. E quindi, voglio dire, a volte i criteri non sono così facili da capire. A volte certo, perché in molte città nel corso degli anni è cambiato il pregio di una stessa zona, cioè una zona che era centrale. Sì. Penso ad alcune città del sud, nelle quali fino magari a 20-30 anni fa alcune zone del centro erano, come dire, ostaggio della criminalità. Magari nel frattempo sono rinate, e nel corso di questi 30 anni le zone centrali sono magari diventate appunto delle zone di vero pregio. Ti fermo un attimo, Cristiano, perché dobbiamo sentire cosa succede sulle strade, e poi ti vorrei portare su due fronti, come dire, più generali, tra l'altro riportati In un editoriale oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula, sul Sole 24 Ore del lunedì, in queste ampie pagine che avete dedicato a Imut e Tasi e in gran parte curate da te, che sono due fronti. Innanzitutto appunto la riforma del catasto, alla quale tu accennavi e che manca ancora. L'altro fronte è il tema dell'incertezza fiscale, perché qua siamo di fronte a un nuovo cambiamento, non so se il quinto o il sesto nel giro di 10 anni, e forse il problema vero è che questo enorme cantiere sembra non concludersi mai. Traffico, ne parliamo tra un attimo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta Focus Economia. Precisazioni, 70.000 non sono le ville, perché qualcuno si dice sono solo 70.000 le ville in Italia, no, sono quelle considerate appunto di pregio. E adesso veniamo anche a quello che ci scrive Gaetano da Lucca, che è quello che accennavamo poco fa, è il problema del catasto, Cristiano, che alla fine non si è voluto riformare, e il vero problema di tutta la questione sta qua, presumibilmente, no? Eh sì, il problema sta qua, perché faceva riferimento il nostro, anche l'ascoltatore che ti ha scritto, dicendo ma le ville non sono solo 70.000. Certo che no, il problema è che noi abbiamo oggi un sistema di categorie catastali che poi stringi fa sì che i 3/4 delle abitazioni italiane risultano accatastate in due sole categorie, la A2 e la A3, che sono le due categorie intermedie, la A2 per le case diciamo ritenute dal catasto medio belle, la A3 per quelle ritenute medio scarse. Ma questo è l'inquadramento catastale. Poi può capitare benissimo che due case, una in A3 e una in A2, siano una accanto all'altra in una città, due palazzine magari costruite in epoca diversa, ma con un valore di mercato assolutamente allineato. E questo è uno dei problemi che riguarda anche la tassazione in tema di Tasi, perché poi dietro alla scelta del governo di dire esentiamo tutte le abitazioni principali, c'è una difficoltà di fondo, che è quella di distinguere veramente tra le case di pregio e quelle che non lo sono. Cioè, se si tolgono quelle 70.000 abitazioni nelle categorie di lusso, tutte le altre ricadono quasi tutte in A2 o in A3, e non sempre con un inquadramento che corrisponde all'effettivo valore. Ecco perché alla fine, se si va a vedere una delle proposte tecnicamente più corrette, per evitare di fare ingiuste discriminazioni, sarebbe quella di dire diamo a tutti uno sconto uguale, come era la vecchia detrazione che c'era con l'IMU. Il problema è che anche in questo caso questo sconto uguale, poiché non è uguale l'inquadramento sottostante, rischierebbe di premiare qualcuno più di qualcun altro solo perché magari ha la fortuna di abitare in una casa che è accatastata in modo più povero, senza che lui abbia beneficiato diciamo di nessuna furbizia, ecco, proprio perché la casa è nata così, magari sì, è stata costruita 30 anni prima di quella del vicino. Sì, allora questo è il punto sul catasto, che ancora rappresenta un problema. Qualcuno dice chiudiamo il CNEL e abbiamo recuperato l'IMU sulle case di lusso, ce lo scrive Marco via SMS, l'abolizione del CNEL è prevista dalla riforma costituzionale appena passata, quindi vedremo, insomma, tra breve evidentemente sarà abolito. Qualcuno parla di giustizia sociale da una parte, dall'altra parte qualcuno ci dice guardate che mantenere queste ville e questi castelli costa un sacco di soldi, quindi non è una questione di proprietà, ma di reddito, insomma, di quanto reddito uno ci deve investire. Comunque, al di là di questo discorso, ti voglio portare sull'incertezza. Qualcun altro ci scrive e dice guardate che tanto il prossimo governo che arriva la Tasi la reintroduce. Il punto è questo, Cristiano, sono 10 anni che viviamo dei cambiamenti continui sul fronte della tassazione sulla casa. Beh, diciamo che questo è un po' il problema che noi abbiamo riscontrato sicuramente dal 2012 in poi, quando è stata introdotta l'IMU, il prelievo è passato a livello complessivo da poco meno di 10 miliardi a circa 24 tra il 2011 e il 2012, quindi nell'arco di una sola stagione il prelievo è più che raddoppiato, e a questo aumento del prelievo si è accompagnata una continua modifica delle regole. Possiamo fare il parallelo con la TARI, quella che oggi si chiama TARI, la tassa rifiuti, ha subito molti cambi di denominazione, da TARSU a TIA a TARES e poi è arrivata a TARI, ma non ha mai generato nei cittadini lo stesso disagio diffuso che hanno generato invece l'IMU e la TASI, perché qui c'è la prassi abbastanza consolidata e collaudata in quasi tutte le città dei bollettini precompilati spediti a casa direttamente dai comuni. Sì. E allora in questo caso si capisce bene quanto anche parte del disagio legato a queste due imposte derivi dall'incertezza e dalla difficoltà di autoliquidarle da parte dei contribuenti chiamati a farsi i conti, per così dire, da soli. Non è per nulla facile. Grazie a Cristiano Dell'Osso del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore continuerà a informarvi su tutto questo. Oggi ampio spazio sul Sole 24 Ore del lunedì e poi ovviamente anche nei prossimi giorni nel corso dei lavori sulla legge di stabilità, della quale adesso continuiamo a parlare, ma a livello più generale, a livello della reazione di Bruxelles, delle coperture, dei soldi che abbiamo previsto di poter scontare per la cosiddetta emergenza migranti. Perché poi ognuno è un piccolo ministro dell'economia, un ascoltatore dice tassare tanto le barche, ma tanto, evidentemente non è un ascoltatore affezionato. Abbiamo raccontato di un settore della nautica nel quale siamo un'eccellenza che è stato letteralmente devastato dai provvedimenti di Monti. Guardiamo sempre anche l'altra faccia della medaglia, Ci sono anche barche da 5.000 euro che rientravano nella tassazione Monti, quindi non è che stiamo parlando di roba pazzesca. E chi ha quelle veramente grosse riesce ad aggirare, quindi non è una cosa particolarmente furba, almeno per come l'abbiamo vista applicata. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera da Bruxelles. Adriana, eccoci. Buonasera. Allora, le risorse della manovra e soprattutto queste indiscrezioni che abbiamo visto circolare tramite l'ANSA sono sempre quelle solite due righe per le quali diciamo, vabbè, insomma, però aspettiamo la documentazione di Bruxelles, che cosa ci dicono davvero. Però ti chiedo intanto se questa sensazione della quale ci riferisce l'ANSA, per cui c'è un buon clima in commissione dopo una prima lettura della legge di stabilità, ce la puoi in linea di massima confermare? In linea di massima sì, naturalmente poi bisogna aspettare l'esame definitivo, ma diciamo che la prima accoglienza sembra orientata al positivo. Non bisogna dimenticare che per arrivare a questa finanziaria c'è stato un enorme lavorio da parte del Ministero del Tesoro con i commissari a Bruxelles, proprio un lavoro di spiegazione per cercare appunto di tirare l'acqua al mulino delle ragioni dell'Italia, quindi dell'utilizzo di una maggiore flessibilità che viene prevista sia per chi fa le riforme sia anche per chi ha delle circostanze particolari o eccezionali. Quella per esempio dei rifugiati può essere una di quelle. Apparentemente, perché l'idea originaria di creare un'eccezione proprio per le spese straordinarie che l'emergenza rifugiati sta imponendo a tutti gli europei, questa idea non passa. Quindi sembra che si ripiegherà su questa interpretazione, cioè circostanze eccezionali che nel caso dell'Italia sono sicuramente quelle dell'arrivo dei rifugiati in forte numero. Certamente, Adriana, noi l'abbiamo stimata in 3,3 miliardi nei documenti che abbiamo inviato a Bruxelles. Immagino che la Commissione ancora non abbia messo la testa esattamente su questa cifra, no? No, non ha messo la cifra, si sussurra che invece dello 0,2 che noi speriamo verrà concesso lo 0,1, ma sono ancora sussurri. Sono ancora sussurri. Al di là di, sì, sì. Sì, questa è l'idea che c'era. Tra l'altro, come dire, dal punto di vista di quanto ci può concedere Bruxelles, abbiamo quelle dichiarazioni di Renzi ai nostri microfoni, al microfono di Oscar Giannino e di Alessandro Mila, non abbiamo il tempo di farlo risentire, che dice Bruxelles non è il maestro che fa l'esame. Se noi, come dire, se ci rimandano indietro la manovra, noi gliela rimandiamo tale e quale. Sono dichiarazioni, quelle di Renzi, piuttosto forti, devo dire la verità. Si appoggiano forse anche, Adriana, sul fatto che non saremmo il primo paese, come dire, che un po' se ne frega dell'opinione della Commissione, no? Allora, io direi che queste dichiarazioni un po' roboanti mi sembra che lasciano far capire che Renzi è sicuro che la sua manovra più o meno passerà e quindi fa un po', tra virgolette, il gradasso, perché sa che ha quasi in mano il via libera. Quanto agli altri che hanno naturalmente, diciamo, utilizzato un po' alla garibaldina le regole, penso soprattutto alla Francia, ma ultimamente anche alla Spagna, di Rajoy, che è stata in qualche modo richiamata all'ordine per la sua ultima finanziaria con richiesta di, come dire, intervenire più avanti sui numeri, e che ha risposto respingendo al mittente le critiche, questo però perché la Spagna è in una stagione elettorale, Rajoy spera di vincere come il campione del rilancio dell'economia e quindi non vuole che nessuno oscuri questo suo, come dire, questo suo lato positivo, questo lato positivo del suo governo. Il caso dell'Italia naturalmente, certo, rientra in questo atteggiamento più flessibile nel governo del patto di stabilità, però non bisogna dimenticare che l'Italia, tra i paesi che abbiamo citato, è quella che ha sicuramente il debito più pesante, 132% del PIL, è enorme. Se non ci sarà la crescita che si spera, diventerà un grosso problema, soprattutto se dovesse cambiare la situazione internazionale, per esempio sì. Se prima o poi ci fosse un rialzo dei tassi di interesse, allora ecco, la gestione del debito diventerebbe molto più complicata e le regole del fiscal compact pure, se ne richiederebbe l'attuazione molto più severa di quanto sembri si farà prossimamente. Grazie ad Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Chiudo con una breve spiegazione, 10 secondi, giusto perché forse non siamo stati abbastanza chiari. I soldi dell'emergenza ai migranti, sì, vanno ai migranti, ma c'è la possibilità forse di scorporarne una parte dal deficit, ed è questo quello che richiede l'Italia a Bruxelles. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Mauro Del Corno e Benjamin De Zulian in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Focus Economia torna domani con Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.